Lenzuolo di seta, una stella cometa, nos amor, una doccia di sole, una roccia nel cuore. Parigi è lontana, amore. Sul nostro muro un quadro giapponese, una finestra a strapiombo sul mare, sulle mattonelle i nostri piedi bagnati. È l'ora della cena anche per gli innamorati. Non correre per vedere, c'è tempo. Restiamo ancora, ancora un momento ad abbracciare questo silenzio, a festeggiare questo mare di vento. Nos amour, un profumo di incenso, una porta di legno, fuori l'inferno. Nos amour, inalienati come l'oro all'anello. Nos amour, due cuscini, un armadio, un solo ombrello. Nos amour, nos amour. Imbarcati sul canal grande, piccoli preziosi gioielli, lune di gigli. Nos amour, velieri indipendenti, indipendenti da tutto, amori senza documenti. Sul nostro muro un quadro giapponese, una finestra a strapiombo sul mare, sulle mattonelle i nostri piedi bagnati. È l'ora della cena anche per gli innamorati. Non correre per vedere, c'è tempo. Restiamo ancora, ancora un momento ad abbracciare questo silenzio, a festeggiare questo mare di vento. Oh.